Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, sul fronte borse oggi la situazione è sempre negativa ma più tranquilla rispetto a ieri, con Milano però che perde sempre qualcosa in più rispetto alle altre borse, anzi Londra è invariata, Francoforte guadagna lo 0,1, Parigi perde mezzo punto percentuale, Milano perde lo 0,80%. Perché? Di nuovo è pesante Mediaset, meno 3% sotto i 5 euro per azione, a questo punto 4,89 euro. Fondiere Assai di nuovo cala, meno 3,3 in pregilo, e Buzzi Unicem, meno 3,80 in pregilo, meno 4,5 Buzzi Unicem. I bancari oggi sono relativamente più tranquilli, non nel caso della Popolare di Milano, meno 2,2, o del Banco Popolare, meno 2%. Unicredit perde l'1, Intesa San Paolo lo 0,70%, Fiat perde lo 0,4%, di positivo c'è Autogrill, più 2,3%, c'è stata la trimestrale e il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno, Campari più 2,30%, Mediolanum più 1,30% e Tenaris più 0,70%. L'euro è sempre debole e parleremo in apertura praticamente di euro, visto che è in corso il vertice dei G20 a Seoul. L'oggetto del vertice è soprattutto la guerra dei cambi, come molti la chiamano, la politica americana che vuole difendere il potere d'acquisto americano e quindi continua a iniettare liquidità, la Cina che la critica ma a sua volta viene criticata per avere una valuta troppo debole rispetto a quello che è il potere economico della Cina. Dicevo, i cambi sono, l'euro continua a scendere un po' a 1,3657 nei confronti del dollaro. Parleremo quindi del vertice di Seoul, ci collegheremo subito con Seoul, poi ci occuperemo della manovra finanziaria con alcune novità e l'appello soprattutto del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto il rigore sui conti è indispensabile, sintetizzo, però attenzione che fa parte della politica e quindi della politica economica anche indicare le priorità, non si può dire non ci sono soldi e quindi si taglia in maniera orizzontale, ed è sembrato anche una posizione in qualche modo dialettica, per non dire critica, ma insomma su una legge finanziaria in cui ci si limita a dire cosa bisogna tagliare ma non si capiscono benissimo le priorità e la cosiddetta riallocazione della spesa. Parleremo di Pompei e anche del Veneto. Del Veneto perché avremo in collegamento il presidente della Confagricoltura che oggi ha sostanzialmente compiuto un viaggio e una perlustrazione nelle aree colpite dall'alluvione. I danni per gli agricoltori sono pesantissimi, pari a quelli per gli imprenditori, imprenditori artigiani e commercianti. Ma parleremo anche di Pompei perché dopo l'audizione di ieri del ministro Bondi alla Camera, oggi Bondi è intervenuto, vista la richiesta di dimissioni, anche al Senato. Ieri molti messaggi sono arrivati al 349-238-6666 perché abbiamo detto che questa volta Bondi aveva ragione, i soldi c'erano, ci sono sempre stati, li ha sempre avuti in cassa l'amministrazione per Pompei, quindi non si può dare la colpa al governo e ai mancati soldi. Certo che il ministro è quello che deve poi commissariare o controllare, ma non diciamo che la casa dei gladiatori è crollata perché mancavano i soldi, anzi scopriremo, e penso che alcuni di voi avranno un attacco di bile, come sono stati sprecati questi soldi, la follia delle consulenze, dell'illuminazione, insomma il magna magna, si può dire, complessivo, tutto tranne che produttivo per il sito archeologico. Infine, appunto, avremo anche i mercati come sempre. Il numero per i vostri sms ve l'ho già detto, comunque 349-238-6666. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, annuncio che stiamo pensando, vedo molti messaggi, perché non proponete, stiamo pensando di lanciare, adesso vi arriveremo, se si andrà veramente verso elezioni, e comunque forse anche in ogni caso, un sondaggio con le leggi per l'economia a costo zero, le leggi per il ministro dello sviluppo economico a costo zero, quelle diciamo che Tremonti non può bocciare perché non toccano la cassa. E ce ne sono di leggi per l'economia a costo zero. Dateci tempo e lanceremo anche questo sondaggio. Andiamo avanti con le notizie. Il petrolio è sempre molto forte, vicino ai 90 dollari al barile, 87,80 dollari. L'oro sale e supera di nuovo i 1400 dollari l'oncia, va a 1408. La sfida dei giganti dei cieli, ogni tanto l'abbiamo raccontata in questi anni, l'Airbus da una parte, il consorzio europeo Airbus e la Boeing dall'altra, ha visto nei giorni scorsi l'Airbus A380, quello nuovo, quello a due piani, il più grande aereo da trasporto passeggeri al mondo, avere forti problemi. Ricorderete l'atterraggio d'emergenza dell'A380 della Qantas, ha preso fuoco uno dei motori Rolls Royce, e quindi grosso panico, alcune compagnie aeree che hanno deciso di lasciare l'aereo a terra. Però dall'altro il fiore all'occhiello della Boeing, il 787 Dreamliner, ha subito ieri un altro intoppo durante un volo di prova e è scoppiato un inspiegabile incendio a bordo, e quindi ritardi sui test, sesto rinvio del progetto. Insomma, sono due aerei che nascono tra enormi difficoltà. Come vanno i rischi dei paesi europei? Insomma, non ci sono buone notizie. Continua a salire il rischio fallimento Irlanda. La differenza, lo spieghiamo ogni volta, tra quanto rende un'obbligazione un bot irlandese e quanto rende un bot tedesco continua a aumentare. Non è una bella notizia, vuol dire che gli investitori per comprare bot irlandesi chiedono di essere pagati in interessi molto di più, perché li ritengono più a rischio. E allora siamo praticamente al 6,50%, 650 punti di differenza tra Irlanda e Germania, un livello mai toccato. Praticamente per vendere le proprie obbligazioni l'Irlanda deve pagare il 6,5% in più di rendimento, una cifra enorme, rispetto a quanto non debba pagare la Germania. Pensate che la Grecia è al 9%, però il Portogallo è al 4,8% come differenza nel rendimento, la Spagna al 2%, l'Italia all'1,7%. Ancora, il governatore della Banca Centrale Irlandese, però, Patrick O'Nohan, ha detto che non stanno lavorando in vista di un salvataggio, di una richiesta di aiuti al Fondo Monetario Internazionale. L'opposizione irlandese ha detto che voterà no alla finanziaria 2011. E poi notizie non belle arrivano anche dalla Spagna. Per quanto in linea con le attese, il PIL spagnolo è rimasto invariato, quindi crescita zero in Spagna nel terzo trimestre dell'anno. In Grecia continua a salire il rischio, il deficit stesso tocca il 15% del PIL, una revisione in peggio, e quindi arriverà anche per la Grecia una nuova stretta e una nuova stangata. Ancora, la Banca Centrale Europea dice oggi che tutto sommato gli ultimi dati macroeconomici indicano una dinamica di fondo positiva nella ripresa economica. Vorremmo capire quanto di fondo. E tuttavia dice vi sono rischi e preoccupazioni in merito alle rinnovate tensioni nei mercati finanziari. È un comunicato che sembra scritto da Ponzio Pilato. Vabbè, allora, visto che stiamo parlando di Europa, di tensioni sui mercati, di Irlanda e anche di valute, liberiamo il soldato Alessandro Merli, ossia l'inviato del Sole 24 Ore a Seul, lo liberiamo vista l'ora, dovrebbe essere quasi... chiediamolo a lui. Alessandro Merli, buonasera. Sì, buonasera, dovrei dire buonanotte. Che ore sono? 1:15, ecco, scusami ma non avevo sotto mano il fuso. Detto ciò... Cerchiamo di capire che cosa è successo oggi in questo primo incontro dei G20, dove la Cina è seccata con gli Stati Uniti perché hanno stamperanno 600 miliardi di dollari per la banca centrale per comprarsi obbligazioni americane, quindi tenendo basso il livello del dollaro, teoricamente i tassi di interesse, ma inondando di liquidità il mercato. Dall'altra invece la Cina, la Germania e il Brasile hanno criticato la decisione di Washington, che è una decisione rischiosa perché rischia di generare inflazione da un lato e bolla speculativa dall'altro. Lo ripetiamo, quando costa poco o niente investire o il denaro, è chiaro che si possono fare anche investimenti molto speculativi, cioè le banche d'affari possono tornare a fare operazioni molto molto speculative, mentre il cavallo americano non ne vuol sapere di bere, cioè i consumi non ripartono. Dall'altro i paesi europei e americani sono seccati, l'America è seccata con la Cina perché questa valuta, questo yuan, continua a essere troppo debole rispetto alla potenza economica cinese. Che è successo oggi? I 20 si sono trovati a cena e hanno discusso proprio di questo tema, economia mondiale e valute. E come dicevi, questa mossa della Fed ha spostato l'attenzione dalla Cina, che finora era stata sul banco degli accusati proprio perché tiene lo yuan troppo sottovalutato e quindi spinge le proprie esportazioni, agli Stati Uniti, per cui in questo momento tutti se la prendono un po' con gli americani. Persino la presidente eletta brasiliana, che è arrivata qui al seguito del suo predecessore Lula, ha pensato di dire la sua, ricordando che in questo modo gli Stati Uniti fanno pagare a tutti gli altri il costo del proprio aggiustamento. Quindi diciamo che il focus si è spostato dalla Cina agli Stati Uniti e tutto sommato si va verso, sulla questione valute, verso un compromesso molto di minima che ricalcherà quello già raggiunto 3 settimane fa dai ministri finanziari e dai governatori sempre qui in Corea, e che dice sostanzialmente niente di più che i 20 si impegnano a non fare svalutazioni competitive, cioè a non fare una rincorsa al ribasso delle proprie valute, e che vogliono orientare i cambi più in una direzione indirizzata dal mercato e che rifletta i fondamentali delle proprie economie. Quindi nessuna pressione sul cambio cinese è un risultato tutto sommato molto modesto. Oh, e adesso ci arriviamo. Però una cosa prima: la Cina oggi ha incassato l'aumento del voto da parte dell'agenzia di rating, quelle che danno il voto sul debito, Moody's, l'ha portato a AA3 da A1 con le prospettive positive. Però in Cina c'è anche un dato sull'inflazione che preoccupa molto il governo cinese, al 4,4%, ben al di sopra del 3% fissato dal governo, e Pechino potrebbe avere un nuovo giro di vite sul credito, quindi una stretta sul credito erogato dalle banche. Detto questo, poi Timothy Geithner, il ministro dell'economia americano, segretario del tesoro, ha detto che gli americani non vogliono il dollaro debole, però ci spiegassero perché allora stampano moneta. E poi invece la presidente del Brasile, Dilma Rousseff, ha criticato oggi la politica del dollaro debole, dice insomma rende difficile, mette in difficoltà tutti gli altri paesi a livello mondiale. Il governatore della Banca d'Italia Draghi ha detto che occorre rafforzare il ruolo del Financial Stability Board, ma insomma gli americani, lo dicevamo ieri, come si dice a Roma, il più pulito alla rogna qui, perché hai voglia di accusare la Cina quando tu stampi moneta a go-go. Detto questo, hai trovato una posizione americana un po' in difficoltà rispetto all'ultimo vertice, quello europeo? Non c'è dubbio che Obama oggi è uscito un po' con le ossa rotte da 3 eventi. Il primo è stato l'incontro bilaterale con il presidente coreano. Di per sé potrebbe non sembrare molto importante, ma quello che gli Stati Uniti speravano di portare a casa da questo vertice era un'apertura maggiore per le proprie merci, soprattutto automobili, carni bovine, del mercato coreano con un accordo di libero scambio. Questo accordo almeno per il momento non si farà, cioè il rinvio dell'annuncio ha significato un po' uno smacco per Obama, perché questo era un risultato concreto che si aspettava da Seul, e questo risultato arriverà forse fra qualche mese, comunque da qui non lo porta a casa. E gli altri due insuccessi sono stati l'incontro da un lato con Hu Jintao, il presidente cinese, il quale è rimasto tranquillamente sulle sue posizioni, che si rivaluteranno lo yuan, ma lo faranno in modo molto graduale, con tempi che decidono loro e non secondo la volontà degli Stati Uniti. E l'altro è stato l'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale a propria volta non ha risparmiato le critiche né alla politica del dollaro debole né a quella proposta americana di limitare i grandi surplus commerciali, e siccome la Germania è il paese che in questo momento nel G20 ha il surplus commerciale più alto, proprio quella che esporta di più, diciamo, sì. Quella che esporta di più rispetto a quello che importa, e su questo ha basato la sua crescita, che in Europa al momento è la più forte, certo, almeno fra i grandi paesi. La signora Merkel non ha certo intenzione, per soddisfare le richieste americane, di limitare i propri esportatori, per cui ha detto che questa proposta non è praticabile né dal punto di vista economico né dal punto di vista politico. Quindi sicuramente Obama ha vissuto una giornata abbastanza una giornata nera dopo il midterm, un'altra giornata nera. Allora, detto questo, lo dico senza polemica, ma se ogni volta che si incontrano G8, G20 su questo tema delle valute non ne vengono a capo, perché la Cina ha la potenza e anche, diciamo, la ragione per dire: sentite, non è che dovete chiedere a noi, noi rivalutiamo quando riteniamo necessario. Dopodiché l'America non è vergine, anzi sta facendo egregiamente i fatti suoi in tema di, appunto, creare bolla di liquidità, stampare moneta, mettere in difficoltà gli altri paesi. Ti chiedo, ma se poi ogni volta si raggiungono degli accordi che così sono solo di principio ma nulla di concreto, ma non si possono sentire in videoconferenza i G20? Ma io credo che questi summit o questi vertici... perché un po' di costi ce l'hanno, insomma, una delegazione normale con quante persone viaggerà? 20, 30, una cosa del genere, no? Sicuramente, soprattutto con il G20, la cosa è diventata pletorica, perché immaginate, stiamo parlando di 4 paesi... Più ci sono tutte le organizzazioni internazionali, più naturalmente ci sono i giornalisti, diventa un circo itinerante. Sì, ma lasciamo stare i giornalisti che se lo pagano i giornali, ma diciamo solo la parte che costa al cittadino, insomma, queste 400 persone che si muovono, che dormono in albergo, che mangiano, tutto legittimo, ci mancherebbe, ma la videoconferenza, no? Cioè, per dirsi, caro Obama, non mi piace quello che hai fatto, cara Merkel, diciamo, vorrei questo. Che il G20 ha, secondo me, dato degli ottimi risultati nel momento del culmine della crisi. Cioè, sì, l'anno scorso è vero. A Londra e successivamente direi anche a Pittsburgh, nel momento in cui l'economia mondiale era paralizzata, i mercati internazionali, soprattutto nel dopo Lehman, erano in grandissima difficoltà, si temeva allora, come ricorderete, quello che si diceva, il meltdown, la fusione, il blocco totale della finanza globale. Il G20 ha fatto degli interventi che si sono rivelati efficaci, o comunque hanno ritrasmesso un minimo di fiducia prima. No, no, ma questo è indubbio, ma in questi casi, dicevo, quando tanto poi sai che la Cina ti dice no, l'America... Nel momento in cui naturalmente gli interessi nazionali divergono, è difficile trovare un coordinamento internazionale. Scrivetemi. Perché è più facile nel momento del panico in cui la barca sta affondando, cercare di tenerla assieme tutti quanti. Quando però la barca ha ripreso a galleggiare, a quel punto forse ognuno vorrà remare in una direzione diversa, e questo naturalmente non è un bello spettacolo, soprattutto se, come dici tu, per dare questo spettacolo si muovono in 400 orde di funzionari, personaggi, leader, eccetera, eccetera. No, voglio però dire, tutto bello, però poi lo pagano i contribuenti, soprattutto, insomma, esistono le mail, esistono le videoconferenze. Diciamo che lo pagano soprattutto i contribuenti dello Stato che organizza, perché se non vado errato, chi effettivamente paga lo sforzo di questa organizzazione, sì, e anche dei viaggi, se non vado errato, è lo Stato organizzatore. Beh, allora facciamoli sempre in Sud Corea, dai. Non ha molto, io spero di no, perché è un viaggio effettivamente abbastanza estenuante, soprattutto se ripetuto, come abbiamo fatto recentemente, nel giro di 3 settimane, 2 volte, penso. Allora facciamoli tutti a San Marino, basta non farli da noi, che già abbiamo altri problemi. L'anno prossimo la presidenza di turno sia del G8 che del G20 sarà in Francia, quindi, se non altro, questo favorirà dei viaggi più agevoli e anche dei fusi orari meno scomodi. Va bene, no, capisco anche il vostro problema, ma insomma mi chiedevo veramente che senso avesse questo circo, diciamo, diplomatico, quando appunto non stai affrontando la crisi come è successo 2 anni fa, e lì aveva un senso, ma stai semplicemente confermando le posizioni che già si conoscevano. Comunque grazie e buonanotte a Alessandro Melli in collegamento con noi da Seul. Grazie a voi. Allora, vedo, sì, alcuni dicono, ma insomma ci saranno anche delle side conversations, che vorrebbe dire degli incontri a margine. E certo che ci sono, trovarsi di persone completamente diverse, ma chi lo mette in dubbio? Ma esistono anche incontri bilaterali, cioè muovere la carovana del G20 per avere queste banalità, passatemi il termine, in cui sì, si impegnano a cose che già sapevamo, bastava un comunicato stampa da Berlino, da Washington, da Roma, da Pechino e via così. Comunque non voglio entrare in polemica, adesso ci occupiamo invece della nostra legge finanziaria. Oramai c'è una grandissima confusione, c'è un buio, c'è un vuoto di riflessione e di confronto nella destinazione delle risorse pubbliche. Grandissima confusione. Abbiamo un debito pesante sulle spalle, dobbiamo fare i conti con una situazione finanziaria complessa, difficile e rischiosa sul piano internazionale, abbiamo degli impegni e degli obblighi europei. La risposta deve essere quella di un contenimento della spesa pubblica, ma dobbiamo tagliare tutto o non tagliare niente? Io credo che non dobbiamo non tagliare niente, non dobbiamo tagliare tutto. E l'arte della politica è la presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità da parte dei poteri pubblici, non consiste proprio nel fare delle scelte, nello stabilire delle priorità. Allora, qui c'è un ragionamento di politica economica importantissimo che ha fatto il Presidente della Repubblica, perché ha detto: abbiamo un debito elevato che va tenuto sotto controllo e nessuno questo lo tocca, ma all'interno, diciamo, della torta di riduzione o dei soldi messi, dei soldi che si possono usare, bisogna stabilire le priorità, non si può tagliare così, come abbiamo visto nell'ultimo Consiglio dei Ministri, i fondi all'ambiente, la scuola, cioè insomma stabiliamo delle priorità, dei sacrifici da alcune parti ma delle priorità dall'altra. È compito della politica dire non solo bisogna tagliare ma anche stabilire dove vanno i soldi pochi che ci sono. E su questo un po' di critica all'atteggiamento del ministro Tremonti, che noi sempre abbiamo elogiato per la tenuta dei conti pubblici, noi la vediamo, perché insomma gli altri ministri che piangano come ha fatto una volta la Gelmini, che si arrabbiano come ha fatto l'ultima volta la Presti Giacomo, ma insomma il ragionamento non puoi solo dire non ci sono soldi, dici come riallocare, diamoci delle priorità, ma non basta dire che i conti sono messi male per non far nulla. Di questo parliamo con Vincenzo Miglietta, che ha seguito la finanziaria e anche l'insoddisfazione delle regioni. Vincenzo, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, 3-4 minuti di pazienza, c'è il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per gli sms. Di Pompei parliamo tra un attimo, non so se c'entri la spesa di 750.000 euro dati a Elton John per una serata a piedi grotta. Ognuno fa quello che vuole, insomma, poi sono i cittadini che votano. A noi interessa sapere che cosa hanno combinato, che cosa cavolo hanno combinato gli amministratori di Pompei e dove hanno, ne sentite delle belle, speso i soldi in tutti i posti possibili tranne chiaramente che per la casa dei gladiatori. Ci sentiamo dopo il meteo. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La finanziaria, poi la borsa, poi gli sprechi di Pompei, una notizia appena uscita che farà arrabbiare alcuni ascoltatori. Allora, abbi un attimo di pazienza, Vincenzo Miglietta, lo abbiamo già detto altre volte, ma insomma, sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze i nuovi dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2009 relative ai guadagni del 2008, chiaramente. Si conferma che in Italia chi guadagna più di 100.000 euro lordi l'anno è solo l'1% dei contribuenti, quindi stiamo parlando di 220.000 persone scarse, e torniamo, non voglio ogni volta tornare su quante auto sopra i 75.000 euro vengono immatricolate, quante barche sopra i 14 metri, siamo a 75.000 barche e 150.000 auto, per cui insomma, qualcosa non torna. E la cosa interessante è che 10.700.000 contribuenti italiani pagano zero IRPEF, 10 milioni di contribuenti italiani zero IRPEF, perché? Perché dichiarano così poco o nulla o così poco, o hanno gli sconti sul poco che dichiarano, per cui zero IRPEF. 10 milioni di poveri, di gente che non ce la fa arrivare a fine mese in questo caso, che stranamente non troviamo i semafori delle strade. E poi ancora la metà, comunque il 50% dei contribuenti dichiara non oltre 15.000 euro lordi l'anno. La faccia del tecnico di regia è più eloquente di ogni mio commento, vuol dire che anche lì abbiamo milioni di italiani che praticamente arrivano a guadagnare 800 euro al mese. Anche qui ci aspetteremmo le file davanti alla San Vincenzo e alla Caritas e non i SUV parcheggiati in doppia fila. Un po' populista, ogni tanto girano anche a noi. I due terzi, insomma, i due terzi non vanno oltre i 20.000 euro lordi. Forse qualche risorsa in più dall'evasione fiscale si può trovare. Torniamo a parlare di finanziaria. Allora, Vincenzo Miglietta, l'appello di Napolitano. Nel frattempo, insomma, il governo sta pensando di introdurre nel milleproroghe la misura che prevede il bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie ecocompatibili, quella misura che era uscita, l'ha detto oggi Marco Milanese, il consigliere politico molto ascoltato dal ministro Giulio Tremonti. E poi le regioni e molte norme del maxi emendamento che rischiano di essere bloccate. Vincenzo. Sì, partiamo dicendo che sui contenuti del pacchetto è comunque necessario usare il condizionale, quanto vi è ancora la scure dell'ammissibilità proprio della Commissione Bilancio da superare, ma entrando nei contenuti, dicevi giustamente, l'agevolazione del 55% per le cosiddette ristrutturazioni verdi andrebbe nel mille proroghe di fine anno. Si era ipotizzato inizialmente un ingresso in questo emendamento alla legge di stabilità, invece Milanese, il consigliere economico di Tremonti, ha dato questa notizia che sarà posticipato almeno di un mesetto, ma vi è oggi l'insoddisfazione degli enti locali. L'emendamento prevedeva un allentamento del patto di stabilità per regioni e comuni di circa 1,2 miliardi, allentamento che non soddisfa né le regioni né i comuni, un provvedimento del tutto insoddisfacente, dice Errani, un bicchiere mezzo vuoto, dice Chiamparino, presidente dell'ANCI. Le uniche certezze, Sebastiano, al momento riguarderebbero le coperture. Sono stati confermati 2,4 miliardi che arriveranno dall'asta sulle frequenze digitali. E dalla relazione tecnica che accompagna l'emendamento si evince poi che 500 milioni è il gettito previsto dalla stretta sui giochi. Si tratta di fatto di maggiori controlli proprio sull'evasione legata a questo settore, e 1,7 miliardi arriveranno da un fondo di Palazzo Chigi, il cosiddetto fondo Letta. Questo un po' è il quadro. Un'altra certezza è relativo al miliardo che invece andrà all'università, miliardo che soddisfa il ministro Gelmini. Per quello che riguarda le zone alluvionate, viene confermato che saranno messi i soldi già nella finanziaria? Sì, assolutamente, si dà questa corsia preferenziale proprio per intervenire in queste zone. Grazie, buon lavoro al nostro Vincenzo Miglietta. Buonasera. Allora, c'è chi dice, guardi, che non può dire guadagna 800 euro perché quello che uno dichiara è tolti i costi. Perfetto, allora diciamo che metà dei contribuenti italiani vive con 800 euro, cioè tolti i costi che ha avuto, vive con 800 euro, gli restano 800 euro al mese per vivere. Dai, per favore, non scherziamo, parliamo di cose serie, il mercato, la borsa. Ammesso che la borsa sia una cosa seria, non sempre lo è. Oggi meno 0,96%. Bene Autogrill, più 2,5%, Campari più 1,90%, Mediolanum più 1,2%, Tenaris più 0,7%, fronte opposto, Boots Unicem meno 4,7%, Impregilo meno 3,60%, Fondiaria meno 3,5%, Mediaset meno 3,2%, Steamicroelectronics meno 3,1%, il 3% lo perde la Popolare di Milano, il 2,80% Italcementi, il 2,60% Generali e anche CIR, Azimut, Banco Popolare e Finmeccanica perdono il 2,2%, poi c'è Geox che perde l'1,80%, Unipol l'1,60%, Euro sotto quota 1,37%, 1,36%, Milano tra le peggiori oggi in Europa, come già ieri, e molti conti trimestrali anche oggi. Generali in primo luogo, Mondadori, ieri era uscita Autogrill e poi... ve li anticipo subito. Generali, l'utile sale del 47%, quasi 46,8%, a 1 miliardo e 300 milioni di euro nei primi 9 mesi, più 47% rispetto ai primi 9 mesi del 2009 per il Leone di Trieste. La raccolta premi sale del 6%, la raccolta vita, il ramo vita dell'8%. E viene confermato un utile operativo per quest'anno tra i 3 miliardi e 6 e 4 miliardi e 2. Mondadori, cresce l'utile nella Mondadori nei primi 9 mesi a 30 milioni più 13%, ricavi più 1,4%. In linea questo con quanto uscito ieri anche dal gruppo Rizzoli Corriere della Sera, che ha visto tornare l'utile di qualche centinaio di migliaia di euro, ma rispetto a milioni di calo di perdita l'anno scorso è un buon risultato. Radio Corriere sulle 24 ore oggi nella persona di Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, Boots Unicem in pregilo. Sì, allora, per quello che riguarda Boots Unicem, la società oggi ha presentato i conti, ma soprattutto quello che ha pesato in questo meno 4,74% finale è il taglio delle stime per fine anno. La società ha detto che è ragionevole ritenere che i risultati per l'intero 2010 saranno inferiori all'indicazione che era stata data solo 3 mesi fa con la semestrale, e quindi questo ha penalizzato sia Boots Unicem, che ruota un po' tutto il comparto delle costruzioni, e infatti anche in pregiro ha ceduto il 3,6%, e anche Italcementi il 2,78%. Beh, continua a calare invece Mediaset. A questo punto ieri ha preso una scoppola, meno 6%, oggi meno 3,26, sotto i 5 euro per azione, 4,89 euro, sempre sull'ipotesi che il governo cada? C'è questo fattore che sottolineano molti operatori, c'è anche il fatto che comunque le guidance, quindi le indicazioni che ha dato sul 2011 sono parse, almeno agli analisti, poco aggressive. Stima una crescita della raccolta pubblicitaria in Italia fra il 2 e il 4%, quando invece altri gruppi, sempre del settore televisivo e media, avevano in qualche modo stupito, per cui insomma gli operatori preferiscono investire su altri titoli piuttosto che su Mediaset in questa fase. Ora, io non sto capendo più alcune cose, per carità, sarà la vecchiaia, non lo so, ma insomma, oltre al caso Fiat, anche oggi Generali, meno 2,60% con un utile che è cresciuto nei primi 9 mesi di quasi il 50%. Magari c'era chi immaginava sarebbe cresciuto di più, ma insomma, me lo spieghi tu? Ma sì, contiamo anche che è stata comunque un'altra giornata non particolarmente brillante per i titoli finanziari, anche sempre per rimanere fra le compagnie assicurative, Fondiaria 6 ha ceduto un altro 3,48%. I conti erano sì buoni, ma sostanzialmente erano in linea con le attese, per cui in una giornata dove i finanziari non hanno brillato, anche Generali, nonostante i risultati in valore assoluto, insomma, non ha particolarmente stupito il mercato. Adesso c'è il traffico, poi il resto dei titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Rispondi in una battuta a un artigiano che dice: ma voi credete che noi con la pressione fiscale, con i costi, si riesca a guadagnare più di 1000 euro al mese? No, non ce l'abbiamo sicuramente con lei. però non raccontiamocelo, i 200 miliardi di evasione in questo paese ci sono, sicuramente non sono quelli dei piccoli, piccolissimi artigiani. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, allora andiamo rapidi. Guido, vorrei un commento su Campari, non mi fate fare ogni volta la battuta sullo spritz che sta arrivando il weekend. Campari più 1,9%, lo dico agli ascoltatori, e Autogrill più 2,5%, mentre continua a calare, giustamente ci chiedono, il Banco Popolare, dopo l'aumento di capitale da 2 miliardi non è che si sia ripigliato molto, anzi meno 2,2%, e poi la Lazio, dai, questi quattro. Allora, per quello che riguarda Campari Autogrill, entrambi sono premiati dalle trimestrali presentate fra ieri per quello che riguarda Autogrill e oggi per quello che riguarda Campari. Va segnalato inoltre che Campari, oltre a far segnare conti in crescita, ha anche sottolineato di avere una disponibilità di 350-400 milioni da spendere in future acquisizioni. Per quello che riguarda la Lazio, il titolo oggi ha perso in maniera molto decisa. E non solo il titolo, anche la Lazio ha perso. Anche la Lazio ha perso ieri in campionato, ha perso il primo posto in classifica, oggi il titolo ha ceduto quasi il 15%. Finalmente un titolo che si muove su notizie concrete, che bello. No, perché qua sei giorni che commentiamo... le ipotesi. Andiamo avanti. E per quello che dicevi tu invece sul Banco Popolare, oggi è da segnalare che si è mosso sostanzialmente in linea con gran parte del settore bancario, ancora penalizzato dalle tensioni sul debito per i paesi più deboli dell'area euro. Beh, tanto è vero che la BPM ha ceduto il 2,99%, l'unico bancario che ha fatto un po' meglio è stato Monte dei Paschi, che ha chiuso sostanzialmente quasi invariato, meno 0,05%, dopo aver presentato i conti e soprattutto dopo aver annunciato che in primavera ci sarà un nuovo piano industriale. Allora, grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, e adesso tenetevi forte, guidate, rallentate, allacciate le cinture, dovreste farlo sempre, perché ci occupiamo di Pompei, non dal punto di vista archeologico, ma degli sprechi. Abbiamo detto che il ministro Bondi, che pure ha la responsabilità di controllare, di commissariare, di gestire, ha ragione quando dice che i soldi per Pompei ci sono e ci sono sempre stati, così come ci sono sempre stati, aggiungiamo noi, sprechi indecenti. Allora, anche oggi Bondi è intervenuto, visto che l'opposizione ha chiesto le sue dimissioni, è intervenuto al Senato. Sentiamo cosa ha detto al Senato sui numeri e sul tema sono mancati i fondi. Il numero è 349-238-6666 ed è il numero per i vostri sms. Sentiamo Bondi. La mancanza di fondi, voglio dirlo chiaramente, non è la causa di ciò che è accaduto a Pompei. Basta esaminare i dati. Pompei, a differenza di altre aree archeologiche, è una sovrintendenza speciale, per cui gli incassi dei biglietti non vanno alle casse dell'erario, ma entrano tutti nelle casse della sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei. Volete sapere qual è la situazione dal punto di vista delle risorse disponibili della sovrintendenza speciale di Napoli e Pompei? Dal 2002 al 2010, rispetto alle entrate e alle spese, nel 2002 le giacenze di cassa a fine anno erano 52 milioni di euro. Nel 2003 le giacenze di cassa erano 58 milioni di euro. Nel 2004 66 milioni di euro. Nel 2005 75 milioni di euro. E qui vedi questo passo. Fino ai 43 milioni di euro del 2008 e ai 25 milioni di euro del 2009. Questi dati, onorevoli colleghi, dimostrano che il problema vero non è la mancanza di fondi. Il problema vero è quello di assicurare una gestione capace di utilizzare al meglio le risorse esistenti. Si può dare torto a Bondi questa volta? A nostro avviso no, ha assolutamente ragione il ministro. Piaccia o non piaccia al governo, non me ne frega nulla. Ha ragione, c'hanno una cassa a Pompei che fa invidia a moltissimi enti, parchi, enti culturali, 52 milioni, 58 milioni, 66 milioni. E che cosa hanno fatto di questi soldi? A parte che avrebbero dovuto spenderli tutti per mettere in sicurezza Pompei. No, perché è più importante la mostra Pompei e il Vesuvio. promossa da Comunicare Organizzando di Alessandro Nicosia, molto vicino al commissario Bertolaso, è costata 600.000 euro. Cavolo, che mostra! Pompei e Vesuvio. Adesso fanno la mostra Pompei e la Casa dei Gladiatori. Per l'illuminazione della casa di Bacco sono stati usati, che non è quella del nostro direttore artistico, ma è il riferimento al... No, mi viene da ridere per questo. Comunque, per l'illuminazione della casa di Bacco sono stati usati 1.200.000 euro. E poi le convenzioni, 500.000 di euro per un progetto intitolato Archeologia e Sinestesia. Io sono ignorante, però magari prima mettete in sicurezza le case. 72.000 euro all'associazione Mecenate 90, presidente onorario Gianni Letta, presidente Alan Elkan. 724.000 euro all'Università di Tor Vergata per lo sviluppo di tecnologie sostenibili. Evidentemente non le hanno sviluppate perché non si è sostenuto niente lì, sta venendo giù tutto. Allora, Raffaella Calandra è in collegamento con noi da Pompei. Raffaella, buonasera. Buonasera. Dove l'abbiamo spedita ieri sera e da stamattina che fa collegamenti. Abbi ancora un po' di pazienza perché senti la sigla del GR. Dopo il GR ci racconti altre chicche che tu hai raccolto parlando con i sindacati che gestiscono, insomma, Pompei. Ci risentiamo fra qualche minuto. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisioni. Continuiamo a raccontare il disastro di Pompei, non quello di 2000 anni fa, ma quello creato in questi ultimi anni di gestione. Vedo molti messaggi che dicono: ma perché difendete il ministro Bondi? Allora, abbiamo solo detto che ha ragione il ministro Bondi nel dire che il problema di Pompei non è quello delle mancate risorse, visto che ha l'ente che l'amministra aveva in cassa 50, 55, 60 milioni di euro dal 2002 in poi. Altra cosa è la responsabilità politica del ministro, praticamente, che deve sorvegliare la responsabilità politica, ma l'attacco a dire ecco non c'erano i soldi, crolla Pompei, è una cavolata. Altra cosa è sono i tagli all'ambiente e li abbiamo raccontati quando si parla dell'alluvione, ma restiamo sul tema di Pompei. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dicevamo appunto dei soldi spesi in mostre un po' improbabili, passatemi il termine, e 724.000 euro dati all'Università di Tor Vergata per lo sviluppo di tecnologie sostenibili. Sostenibili per chi? Per i commissari, per gli amministratori, non certo per il sito archeologico. E poi 47.000 euro per il progetto Torna alla Vite, 185.000 euro per il progetto Pompei Viva, viva Pompei forse, e poi 12.000 euro, rido per non piangere, pagati per rimuovere 19 pali della luce, 100.000 euro pagati per il potenziamento dell'illuminazione delle strade esterne al sito, in fondamentale, 100.000 euro per una ditta che ha rifatto le transenne, e poi 91.000 euro andati a un centro di ricerche musicali per installare i planofoni, strumenti per la diffusione del suono nello spazio, perché insomma il suono lo può diffondere anche nella terra, ma in questo caso lo diffondiamo nello spazio. E pensate, questa è bellissima. Poi Raffaella Calandra, sto zitto, 665 euro serviti per cambiare la serratura, una serratura di un punto di ristoro, che è una cosa con le impronte digitali alla Matrix. Raffaella, cosa hai scoperto oggi da Pompei? Sebastiano, a questi numeri io ne vorrei aggiungere un altro. E allora vogliamo farci del male, va bene. 600.000 di un preventivo per il restauro del cosiddetto teatro grande, che sono diventati 7 milioni. Le cifre che tu hai dato e quest'ultima cifra che io ti ho riportato sono quelle che gli esperti, soprattutto gli archeologi, mettono sotto accusa, contestandoli in particolar modo alla gestione dei commissari, perché se è vero che i soldi ci sono per Pompei, il problema è come e chi li ha gestiti e per quale funzione. La logica che gli esperti contestano è che in nome del grande evento, in nome del far sì che Pompei brillasse di luce riflessa per gli eventi organizzati, come ad esempio quello di Pompei Viva o ancora quelli, i grandi spettacoli che dovevano essere ospitati all'interno di questo teatro grande, il cui restauro è stato fortemente criticato dagli esperti archeologi, hanno sottratto drenato soldi alla manutenzione quotidiana silenziosa di canalette, terrapieni, erbacce, insomma quella manutenzione costante che fa sì che le case non crollino. 79 milioni in totale sono stati spesi durante gli anni della gestione commissariale appunto di Pompei, a cui ha fatto seguito la nomina di alcuni sovrintendenti ad interim, con un interim di 6 mesi, per cui se è vero che i soldi ci sono e bisogna andare a capire come vengono spesi, è anche vero che però bisogna scegliere chi li deve spendere e chi li deve amministrare, e quello dei commissari, devo dire, è un po' uno dei punti dolenti che gli esperti archeologi stanno a contestare, soprattutto anche perché i soldi di Pompei arrivano in gran parte dagli incassi dei turisti, che sono tantissimi, in media si calcola circa 20 milioni annui di incassi di visitatori paganti, come ci ha confermato anche uno dei sindacalisti qui di Pompei, Antonio Pepe, segretario CISL. Sentiamolo. Risulta così anche a noi, anche se però bisogna valutare quello che era in quegli anni nel preventivo di spesa, perché tutti quei soldi non è che potevano essere spesi così ordinariamente, c'era bisogno di avere da parte di seguire la formula delle gare di appalto, non è che potevano essere affidati così straordinariamente, c'era insomma una prassi da seguire, bisognava seguirla. Cioè vuol dire che quei milioni erano sulla carta ma non c'erano effettivamente nelle casse di Pompei, perché erano stati già destinati a delle spese? Erano destinati tutti al restauro per gli scavi di Pompei e le altre aree dell'archeologica di Pompei, che erano Ercolano, Stabia, Oplonti e Bosco Reale. Quindi vuol dire che non c'erano dei soldi non spesi? Ma assolutamente non erano spesi, solo sulla carta risultavano non spesi, ma tutto sommato insomma erano soldi già destinati a degli interventi che erano importanti proprio alla conservazione. Allora, così appunto il segretario della CISL. Tu hai detto una cosa molto giusta, Raffaella, ossia i soldi spesi per queste manifestazioni appunto musicali, quant'altro, sono tutti soldi, ripeto, 500.000 per il progetto archeologia e sinestesia. Mi dite tra l'altro cos'è la sinestesia, lo dico anche agli ascoltatori perché così capisco dove abbiamo speso 500.000 di euro, tutti i soldi che non andavano nella manutenzione, perché la manutenzione è noiosa, non si vede, non si magna, possiamo dirlo, si magna meno rispetto a un grande evento in cui ci sono tutti a cachet, e la manutenzione però poi è quella che tiene sulle mura. Comunque andiamo avanti. Raffaella, tu hai sentito anche alcuni docenti di archeologia. Esatto, prego. Il professor Carlo Gaspari, che è il titolare della cattedra di archeologia greco-romana dell'Università Federico II, è tra le persone che conoscono meglio e che studiano Pompei. Sentite quello che ci ha detto, perché è molto interessante. Non dimentichiamoci che ci fu il grosso prelievo di fondi all'epoca di Buttiglione dalla sovrintendenza. I nuovi commissari che si sono succeduti hanno messo in essere a volte delle iniziative del tutto discutibili. Il primo commissario straordinario, per esempio, che arrivò a Pompei, utilizzò fondi della sovrintendenza per finanziare l'impianto di illuminazione della strada perimetrale, quindi una zona di competenza comunale. Paradossalmente i guadagni di Pompei sono stati un boomerang. Un boomerang nel senso che hanno innescato questa idea di ricavare guadagno dallo scavo attraverso l'organizzazione di eventi, di manifestazioni, di spettacoli, eccetera. Nel caso di Pompei questo ha determinato una disastrosa ricostruzione del Teatro Grande di Pompei, che ha stravolto i progetti iniziali della sovrintendenza. Quindi la logica della grande grande evento è andata a scapito della manutenzione quotidiana. E questo concetto della valorizzazione che è perverso e distruttivo. La Villa dei Papiri fu oggetto in passato di questo scavo singolare. La Sovrintendenza ha dovuto riprendere questo grosso intervento lasciato non definito. A proposito della Villa dei Papiri, professore, è stata anche oggetto di uno scambio di finanziamenti tra ministeri. È una cosa singolare, sono fondi che dovrebbero essere utilizzati per ricerca scientifica che vengono dati al Ministero dei Beni Culturali. Applicare questi sforzi di ricerca a un monumento che non ha bisogno di avere indagini, perché non dovremo intervenire mai su di lui per conservarlo, ed è tutto inutile. Di quanti milioni stiamo parlando? 30 milioni. Quindi anche i ministeri usano male i soldi, gestiscono male i soldi? Usano sempre, guardi, costantemente per operazioni che abbiano delle risonanze mediatiche. Eccoci, grande venti. Tra l'altro doveva occuparsene anche Bertolaso di Pompei. Ora, Pompei fu un'emergenza 2000 anni fa, non penso che rientri nella protezione civile, però... E questo è il punto per capire. I grandi eventi mediatici, ci sono consulenze meno controllabili, danno molto glamour a chi li organizza, si spende e poi tutto ritorna come prima. Raffaella, ancora un minuto del traffico, poi passiamo anche agli uvenati in vento. C'è un ascoltatore che dice: basta parlare di Pompei, occupatevi delle imprese. Beh, insomma, i soldi vengono sprecati anche lì. Adesso torniamo alle imprese del vento alluvionato, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per raccontare come sono stati spesi i soldi di Pompei. Ripeto, il ministro Bondi avrà una responsabilità politica perché il suo ministero, abbiamo solo detto che ha ragione nel dire che i soldi a Pompei ci sono e ci sono sempre stati, non abbiamo detto che Bondi abbia fatto bene il suo lavoro, però se dobbiamo chiedere la dimissione del ministro ogni volta che crolla un muro, allora ha ragione chi scrive che quando crollarono le mura, un pezzo delle mura aureliane a Roma, c'era il ministro Melandri, nessuno chiese le dimissioni. Vabbè, andiamo avanti con i soldi, i conti, i numeri che a noi interessano. Allora, molti ascoltatori, Raffaella Calandra, chiedono anche i nomi di questi commissari, perché a noi risulta che finché c'era Renato Profili la struttura era fatta da 5 uomini di staff, 260.000 euro l'anno. Poi è arrivato Massimiliano Fiori, può essere il nome di battesimo? Fiori e poi Giuseppe Proietti. E poi Giuseppe Proietti, e si è passati a 12 persone di staff. E la struttura, invece che costare 260.000 euro, è arrivata a costare 2.300.000 euro. Tra l'altro Fiori è anche quello che ha fatto il restauro del Teatro Grande, dove la cava è stata ricostruita con mattoni di tufo che nulla c'entrano, e hanno lavorato con martelli pneumatici, scavatori, in una zona dove bisognerebbe camminare a piedi nudi. Vabbè, qui siamo al ridicolo. Raffaella. È quello di cui parlava il professor Gaspari, che abbiamo sentito prima, il restauro del Teatro Grande, che gli esperti ritengono sia stato completamente stravolto rispetto alla struttura originaria. Cioè sono modalità diverse di concepire e di utilizzare una struttura, un sito archeologico unico come Pompei, e che devo dire in questo momento è in sofferenza. Questa mattina noi abbiamo potuto visionare i registri dei custodi di Pompei, che riempiono pagine di segnalazioni con cedimenti, crolli, quando non segnalando furti anche, e questo ritorna anche al discorso del numero di persone che lavorano a Pompei, perché i custodi sono troppo pochi per poter controllare un'area che è ampia 66 ettari, ricordiamole. Quindi non è vero che c'è troppo organico? Non nell'organico che lavora all'interno degli scavi. Il discorso delle persone che possono collaborare a organizzazioni di vario tipo è un'altra cosa rispetto agli operativi. Ti dico che ci sono soltanto, sto cercando tra i miei appunti, 6 restauratori e 9 archeologi, a fronte di, come abbiamo sentito prima, in totale circa 170 dipendenti, compreso vigilanti e comprese tutte le persone che qui ci lavorano notte e giorno anche, ed è l'unico sito in Italia che non ha la chiusura neanche il lunedì. proprio perché l'affluenza di turisti è tale che non si è voluto diciamo precludere neanche un giorno alla visita. Sì, temo che Ercolano non sia messa molto meglio. Comunque, insomma, qui. In realtà Ercolano è diversa perché, prima di tutto, ha una struttura diversa, essendo il sito archeologico molto più ridotto, quindi molto più semplice da gestire e quindi da controllare. E poi ha una struttura anche proprio dovuta all'eruzione che diciamo rende più semplice anche nella manutenzione. Allora, nel frattempo, vedo tantissimi messaggi, non riesco quasi a starci dietro. Ci avete spiegato anche cos'è la sinestesia, cioè la percezione multisensoriale. Mi fa piacere, vorrei capire com'è che si sono spesi 500.000 di euro per un progetto, poi un progetto, altri vogliono ancora altre indicazioni. Ci furono 11.000 euro per la pulizia delle aree per una presunta visita di Berlusconi che poi mai è andato a Pompei, 9.600 euro per l'accoglienza. Caspita, e poi ancora 60.000 euro in totale per una visita appunto che il Presidente del Consiglio poi non ha mai fatto, ma non è certo colpa sua in questo caso. E ancora, se volete posso continuare con la lista, insomma, una marea, 2.300.000 euro, ecco il dato finale sul quanto costa la gestione della struttura. Hai visto qualche iniziativa presa in questi giorni? Cioè c'è qualcosa, si nota qualcosa oppure tanto lì tutto resta come prima, Raffaella? Ma qui c'è una grande tensione sicuramente. Vabbè. Oggi c'è stata anche la visita della Commissione Cultura e indicativo della tensione che si respira è il fatto che la sovrintendenza ha mandato una comunicazione interna ai propri dipendenti oggi proibendo qualsiasi rapporto con la stampa e qualsiasi contatto con le persone esterne ai loro uffici. Ovviamente ci sono soprattutto i sindacati che sono in fibrillazione, ci sarà una manifestazione tra domani e dopodomani, ma quello che a me oggi ha colpito soprattutto guardando tutto questo registro dei custodi con tutte le segnalazioni è il ripetersi degli allarmi e viene da farsi una domanda: quanti soldi e quante persone sono effettivamente dedicate a questo lavoro silenzioso che garantisce la sopravvivenza di Pompei? Dicelo tu. No. Molto poche, è quelle che abbiamo sentito prima, ovviamente. Cioè, una decina tra archeologi, mi dicevi, Esatto, sono 6 restauratori e 9 archeologi su un'area che è unica al mondo. Sì, no, ma su quante persone? Su 150? Sono circa 170 dipendenti. Ma che cavolo fanno gli altri? Cioè, io capisco i vigilanti, capisco quello che deve stare la biglietteria, ma 150, leviamo 15 archeologi e restauratori, quanti vigilanti saranno? 20? Beh, ma è la grandezza di Pompei, parliamo di 76 ettari. Ho capito, cioè, ma ci sono anche... Spiega anche la necessità che non ci siano i furti. A Pompei un altro problema sono i furti dei tasselli, dei mosaici, degli affreschi che stanno crollando, dei tanti turisti che vengono e pensano di poter portare via un souvenir, e così come avviene in tutti i musei del mondo dove ci sono i custodi a vigilare che tutto questo non accada, ovviamente per Pompei questo è all'ennesima volta più difficile, proprio perché un vigilante ha un'area che si calcola di circa 10 metri quadrati da dover controllare, quindi non riesce a far dietro all'alto numero di turisti. Sì, vabbè, comunque secondo me resta il fatto che insomma, comunque la si rigiri, i soldi li avevano in cassa. È vero quello che fanno notare molti ascoltatori, che Bondi ha detto c'erano 52 milioni nel 2002, poi 58, poi 66, poi si sono ridotti a 25, va bene, ma i soldi in cassa ce li avevano o comunque li avevano iscritti a bilancio. E vale anche la pena ricordare che insomma sulla manutenzione nessuno si è occupato, perché non è glamour, non è scambio, non hai diciamo accordi, non hai consulenze, non ti metti in vista. Questo è il problema. È inutile continuare a dire sempre che non ci sono i soldi. Delle volte non ci sono, lo dico anche chi scrive, delle volte invece i soldi ci sono e o non vengono spesi o vengono spesi nel modo in cui abbiamo visto. Grazie a Raffaella Calandra in collegamento con noi da Pompei. Insomma, sì, è scandalosa sta cosa. Vedo moltissimi messaggi. Caro Giuseppe Cruciani, abbiamo ricostruito con Raffaella Calanda, forse ti sei perso gli ultimi passaggi, 600 euro per cambiare un lucchetto a Pompei, mezzo milione di euro per un progetto intitolato Archeologia e Sinestesia, ma ce n'era una ancora più bella che adesso ho perso. Le transenne 100.000 euro e poi c'è una cosa sull'acustica bellissima, non la trovo più. Comunque, di cosa? Beh, 600.000 euro per la mostra Pompei e Vesuvio, imperdibile. Sono i costi del commissario? I costi della gestione di Pompei in questi anni. E poi 185.000 euro per il progetto Pompei Viva. E 720.000 euro all'Università di Tor Vergata per lo sviluppo di tecnologie sostenibili che sostenevano tutto tranne che la casa. E questa è la prova che non sono le risorse, il problema, ma è la gestione delle risorse. L'abbiamo detto. Di che cosa ti occupi? Forse di politica? Beh, naturalmente sì, perché sono ore decisive per il governo, dunque ci occuperemo degli ultimi sussulti forse di un governo, forse no, perché Berlusconi in realtà dice che non si vuole dimettere, che deve essere fine a sfiduciarlo in Parlamento. E allora tra poco la zanzara, per Focus Economia è veramente tutto, domani ci risentiamo dalle 17 in poi, intanto buona serata. Radio 24, la passione si sente.